Ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Qui, tra i poveri spaventati, troviamo persone di nostra conoscenza. Chi non ha visto Don Abbondio il giorno che si sparsero tutte in una volta le notizie della calata dell'esercito, del suo avvicinarsi e dei suoi portamenti, non sa bene cosa sia impiccio e spavento. Vengono, sono 30, sono 40, sono 50.000, sono diavoli, sono ariani, sono anticristi. Hanno saccheggiato Corte Nuova, hanno dato fuoco a Primaluna, devastano Introbbio, Pasturo, Barsio, sono arrivati a Balabbio, domani son qui. Tali erano le voci che passavano di bocca in bocca. E insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un consultare tumultuoso, un'esitazione tra il fuggire e il restare, un radunarsi di donne, un metter le mani nei capelli. Don Abbondio, risoluto di fuggire, risoluto prima di tutti e più di tutti, vedeva però in ogni strada da prendere, in ogni luogo da ricoverarsi, ostacoli insuperabili e pericoli spaventosi. «Come fare?» esclamava. «Dove andare?» I monti, lasciando da parte la difficoltà del cammino, non erano sicuri. Già s'era saputo che i lanzichenecchi vi si arrampicavano come gatti dove appena avessero indizio o speranza di far preda. Il lago era grosso, tirava un gran vento. Oltre di questo, la più parte dei barcaioli, temendo ad essere forzati a tragittar soldati o bagagli, s'erano rifugiati con le loro barche all'altra riva. Alcune, poche rimaste, erano poi partite stracariche di gente e, travagliate dal peso e dalla burrasca, si diceva che pericolassero ogni momento. Per portarsi lontano e fuori della strada che l'esercito aveva a percorrere, non era possibile trovare né un calesse, né un cavallo, né alcun altro mezzo. A piedi, Don Abbondio non avrebbe potuto far troppo cammino e temeva d'essere raggiunto per strada. Il territorio bergamasco non era tanto distante che le sue gambe non ce lo potessero portare in una tirata, ma si sapeva che era stato spedito in fretta da Bergamo uno squadrone di cappelletti, il qual doveva costeggiare il confine per tenere in suggezione i lanzichenecchi. E quelli erano diavoli in carne, né più né meno di questi, e facevano, dalla parte loro, il peggio che potevano. Il povero uomo correva, stralunato e mezzo fuor di sé, per la casa. Andava dietro a Perpetua per concertare una risoluzione con lei. Ma Perpetua, affaccendata a raccogliere il meglio di casa e a nasconderlo in soffitta, o per i bugigattoli, passava di corsa, affannata, preoccupata, con le mani o con le braccia piene, e rispondeva: «Ora finisco di mettere questa roba al sicuro e poi faremo anche noi come fanno gli altri». Don Abbondio voleva trattenerla e discutere con lei vari partiti, ma lei, tra il da fare e la fretta e lo spavento che aveva anch'essa in corpo e la rabbia che le faceva quello del padrone, era in tal congiuntura meno trattabile di quel che fosse stata mai. «Si ingegnano gli altri, ci ingegneremmo anche noi. Mi scusi, ma non è capace che di impedire. Crede lei che anche gli altri non abbiano una pelle da salvare? Che vengono per far la guerra a lei, i soldati? Potrebbe anche dare una mano in questi momenti, invece di venir tra i piedi a piangere e a impicciare». Con queste simili risposte si sbrigava da lui, avendo già stabilito, finita che fosse alla meglio quella tumultuaria operazione, di prenderlo per un braccio, come un ragazzo, e di strascinarlo su per una montagna. Lasciato così solo, s'affacciava alla finestra, guardava, tendeva gli orecchi e, vedendo passare qualcheduno, gridava con una voce mezza di pianto e mezza di rimprovero: «Fate questa carità al vostro povero curato di cercargli qualche cavallo, qualche mulo, qualche asino. Possibile che nessuno mi voglia aiutare? Oh, che gente! Aspettatemi almeno, che possa venire anch'io con voi. Aspettate d'essere 15 o 20, da condurmi via insieme, ch'io non sia abbandonato. Volete lasciarmi in man dei cani? Non sapete che sono luterani la più parte, che ammazzare un sacerdote l'hanno per opera meritoria? Volete lasciarmi qui a ricevere il martirio? Oh, che gente! Oh, che gente!» Ma a chi diceva queste cose? ad uomini che passavano curvi, sotto il peso della loro povera roba, pensando a quella che lasciavano in casa, spingendo le loro vaccherelle, conducendosi dietro i figli carichi anch'essi quanto potevano, e le donne con in collo quelli che non potevano camminare. Alcuni tiravano di lungo, senza rispondere né guardare in su. Qualcheduno diceva: messere, faccia anche lei come può. Fortunato lei che non ha da pensare alla famiglia. S'aiuti, s'ingegni. Oh, povero me, esclamava don Abbondio. Oh, che gente, che cuori, non c'è carità. Ognuno pensa a sé e a me nessuno vuol pensare. E tornava in cerca di Perpetua. Oh, appunto, gli disse questa, ai danari come faremo? Li dia a me, che anderò a sotterrarli qui nell'orto di casa insieme con le posate. Ma, dia qui, tenga qualche soldo per quel che può occorrere e poi lasci fare a me. Don Abbondio ubbidì, andò allo scrigno, cavò il suo tesoretto e lo consegnò a Perpetua, la quale disse: vuò sotterrarli nell'orto, a piè del fico, e andò. Ricomparve poco dopo con un paniere dove c'era della munizione da bocca e con una piccola gerla vuota, e si mise in fretta a collocarvi nel fondo un po' di biancheria sua e del padrone, dicendo intanto: il breviario almeno lo porterà a lei. Ma dove andiamo? Dove vanno tutti gli altri? Prima di tutto andremo in strada e la sentiremo e vedremo cosa convenga di fare. In quel momento entrò Agnese con una gerletta sulle spalle e in aria di chi viene a fare una proposta importante. Agnese, risoluta anche lei di non aspettare ospiti di quella sorte, sola in casa com'era, e con ancora un po' di quell'oro dell'innominato, era stata qualche tempo in forse del luogo dove ritirarsi. Il residuo, appunto, di quegli scudi che nei mesi della fame le avevano fatto tanto pro, era la cagion principale della sua angustia e della sua irresoluzione, per aver essa sentito che, nei paesi già invasi, quelli che avevano danari s'eran trovati a più terribile condizione esposti insieme alla violenza degli stranieri e alle insidie dei paesani. Era vero che, del bene piovutole, come si dice, dal cielo, non aveva fatta la confidenza a nessuno, forché a don Abbondio, dal quale andava, volta per volta, a farsi spicciolare uno scudo, lasciandogli sempre qualcosa da dare a qualcheduno più povero di lei. Ma i danari nascosti, specialmente chi non è avvezzo a maneggiarne molti, tengono il possessore in un sospetto continuo del sospetto altrui. Ora, mentre andava anch'essa rimpiattando qua e là alla meglio ciò che non poteva portar con sé e pensava agli scudi che teneva cuciti nel busto, si rammentò che, insieme con essi, l'innominato le aveva mandate le più larghe offerte di servizi. Si rammentò le cose che aveva sentito raccontare di quel suo castello, posto in luogo così sicuro e dove, a dispetto del padrone, non potevano arrivar se non gli uccelli, e si risolvette ad andare a chiedere un asilo lassù. Pensò come potrebbe farsi conoscere da quel signore e le venne subito in mente don Abbondio, il quale, dopo quel colloquio così fatto con l'arcivescovo, le aveva sempre fatto festa e tanto più di cuore che lo poteva senza compromettersi con nessuno e che, essendo lontani due giovani, era anche lontano il caso che a lui venisse fatta una richiesta la quale avrebbe messa quella benevolenza a un gran cimento. Suppose che, in un tal parapiglia, il pover'uomo doveva essere ancor più impicciato e più sbigottito di lei e che il partito potrebbe parer molto buono anche a lui. E glielo veniva a proporre. Trovatolo con Perpetua, fece la proposta a tutte e due. «Che ne dite, Perpetua?» domandò don Abbondio. «Dico che è un'ispirazione del cielo e che non bisogna perdere tempo e mettersi la strada tra le gambe. E poi, quando saremo là, ci troveremo ben contenti. Quel signore ora si sa che non vorrebbe altro che far servizi al prossimo e sarà ben contento anche lui di ricoverarci. Là, sul confine, e così per aria, soldati non ne verrà certamente. E poi, ci troveremo anche da mangiare, che su per i monti, finita questa poca grazia di Dio, e così dicendo l'accomodava nella gerla sopra la biancheria, ci saremmo trovata mal partito. Convertito è convertito davvero, Che c'è da dubitarne ancora, dopo tutto quello che si sa, dopo quello che anche lei ha veduto? E se andassimo a metterci in gabbia? Che gabbia? Con tutti codesti suoi casi, mi scusi, non si verrebbe mai a una conclusione. Brava Agnese, v'è proprio venuto un buon pensiero. E messa la gerla su un tavolino, passò le braccia nelle cigne e la prese sulle spalle. «Non si potrebbe, disse don Abbondio, trovar qualche uomo che venisse con noi per far la scorta al suo curato? Se incontrassimo qualche birbone, che purtroppo ce n'è in giro parecchi, che aiuto m'avete a dar voi altre?» «Un'altra per perder tempo», esclamò Perpetua. «Andarla a cercare ora l'uomo che ognuna da pensare a fatti suoi, animo! Vada a prendergli breviare il cappello e andiamo!» Don Abbondio andò. Tornò di lì a un momento, col breviario sotto il braccio, col cappello in capo e col suo bordone in mano, e uscirono tutte e tre per un usciolino che metteva sulla piazzetta. Perpetua richiuse, più per non trascurare una formalità che per fede che avesse in quella toppa e in quei battenti, e mise la chiave in tasca. Don Abbondio diede nel passare un'occhiata alla chiesa e disse tra i denti: «Al popolo tocca a custodirla, che serva a lui. Se hanno un po' di cuore per la loro chiesa, ci penseranno. Se poi non hanno cuore, tal sia di loro». Presero per i campi, zitti zitti, pensando ognuna a casi suoi e guardandosi intorno, specialmente don Abbondio, se apparisse qualche figura sospetta, qualcosa di straordinario. Non si incontrava nessuno. La gente era o nelle case a guardarle, a far fagotto, a nascondere, o per le strade che conducevano direttamente alle alture. Dopo aver sospirato e risospirato e poi lasciato scappare qualche interiezione, don Abbondio cominciò a brontolare più di seguito. Se la prendeva col duca di Nevers, che avrebbe potuto stare in Francia a godersela, a fare il principe, e voleva essere duca di Mantova a dispetto del mondo, con l'imperatore, che avrebbe dovuto aver giudizio per gli altri, lasciar correre l'acqua all'ingiù, non star su tutti i puntigli, che finalmente lui sarebbe sempre stato l'imperatore, fosse duca di Mantova, Tizio o Sempronio. L'aveva principalmente col governatore, al cui sarebbe toccata a far di tutto per tener lontani i flagelli dal paese. Ed era lui che ce li attirava, tutto per il gusto di far la guerra. Bisognerebbe, diceva, che fossero qui quei signori a vedere, a provare che gusto è. Hanno da rendere un bel conto, ma intanto ne va di mezzo chi non c'ha colpa. «Lascia un po' starco desta gente, che già non son quelli che ci verranno a aiutare», diceva Perpetua. «Codeste, mi scusi, son di quelle sue solite chiacchiere che non concludo nulla, piuttosto quel che mi dà noia». «Cosa c'è?» Perpetua, la quale in quel pezzo di strada aveva pensato con comodo al nascondimento fatto in furia, cominciò a lamentarsi d'aver dimenticata la tal cosa, d'aver mal riposta la tal altra, qui d'aver lasciata una traccia che poteva guidare i ladroni là. «Brava!» disse don Abbondio, ormai sicuro della vita quanto bastava per poter angustiarsi della roba. «Brava! Così avete fatto? Dove avevate la testa?» «Come?» esclamò Perpetua, fermandosi un momento su due piedi e mettendo i pugni sui fianchi in quella maniera che la gerla glielo permetteva. «Come? Verrà ora a farmi codesti rimproveri quando era lei che me la faceva andar via la testa, invece d'aiutarmi e farmi coraggio? Ho pensato forse più alla roba di casa che alla mia. Non ho avuto chi mi desse una mano. Ho dovuto far da Marta e Maddalena. Se qualcosa andrà male, non so cosa mi dire. Ho fatto anche più del mio dovere». Agnese interrompeva questi contrasti, entrando anche lei a parlare dei suoi guai. E non si rammaricava tanto dell'incomode e del danno, quanto di veder svanita la speranza di riabbracciar presto la sua Lucia, che, se vi rammentate, era appunto quell'autunno sul quale avevan fatto assegnamento. Ne era da supporre che donna Prassede volesse venire a villeggiare da quelle parti in tali circostanze. Piuttosto ne sarebbe partita, se ci si fosse trovata, come facevano tutti gli altri villeggianti. La vista dei luoghi rendeva ancor più vivi quei pensieri d'Agnese e più pungente il suo dispiacere. Usciti da sentieri, avevan presa la strada pubblica, quella medesima per cui la povera donna era venuta riconducendo per così poco tempo a casa la figlia, dopo aver soggiornato con lei in casa del sarto. E già si vedeva il paese. «Anderemo bene a salutar quella brava gente», disse Agnese, «e anche a riposare un pochino, che di questa gerla io comincio ad averne abbastanza, e poi per mangiare un boccone», disse Perpetua, «con il patto di non perder tempo, che non siamo in viaggio per divertimento». concluse don Abbondio. Furono ricevuti a braccia aperte e veduti con gran piacere. Rammentavano una buona azione. «Fate del bene a quanti più potete», dice qui il nostro autore, «e vi seguirà tanto più spesso d'incontrar dei visi che vi mettono allegria». Agnese, nell'abbracciar la buona donna, diede in un dirotto pianto che le fu d'un gran sollievo e rispondeva con singhiozzi alle domande che quella e il marito le facevano di Lucia. «Sta meglio di noi», disse don Abbondio, «è a Milano, fuori dei pericoli, lontana da queste diavolerie». «Scappano, eh? Il signor curate la compagnia?» disse il sarto. «Sicuro», risposero a una voce il padrone e la serva. «Li compatisco. Siamo incamminati», disse don Abbondio, «al castello di...» «L'hanno pensata bene, sicuri come in chiesa. E qui non hanno paura?» disse don Abbondio. «Dirò, signor curato, propriamente in ospitazione, come lei sa che si dice, a parlar bene, qui non dovrebbero venir coloro, siamo troppo fuori della loro strada, grazie al cielo. Al più qualche scappata, che Dio non voglia, ma in ogni caso c'è tempo. Sanno a sentir prima altre notizie da poveri paesi dove anderanno a fermarsi». Si concluse di star lì un poco a riprender fiato, e siccome era l'ora del desinare, «Signori», disse il sarto, «devono onorare la mia povera tavola, alla buona. Ci sarà un piatto di buon viso». Perpetua disse d'aver con sé qualcosa da rompere il digiuno. Dopo un po' di cerimonie, da una parte e dall'altra, si venne a patti d'accozzar, come si dice, il pentolino e di desinare in compagnia. I ragazzi s'eran messi con gran festa intorno ad Agnese e loro amica vecchia. «Presto, presto!» Il sarto ordinò una bambina, quella che aveva portato quel boccone a Maria Vedova, chissà se ve ne rammentate più, che andasse a diricciar quattro castagne primaticce che erano riposte in un cantuccio e le mettesse a arrostire. «E tu», disse al ragazzo, «va nell'orto a dare una scossa al pesco, da farne cadere quattro, e portale qui, tutte, beh». «E tu», disse a un altro, «va sul fico a coglierne quattro dei più maturi. Già lo conoscete anche troppo, quel mestiere». Lui andò a spillare una sua botticina, la donna a prendere un po' di biancheria da tavola. Perpetua cavò fuori le provisioni, s'apparecchiò un tovagliolo e un piatto di maiolica al posto d'onore per don Abbondio, con una posata che Perpetua aveva nella gerla. Si misero a tavola e desinarono, se non con grande allegria, almeno con molta più che nessuno dei commensali si fosse aspettato d'averne in quella giornata. «Cosa ne dice, signor curato, d'uno scombussolamento di questa sorte?» disse il sarto. «Mi par di leggere la storia dei Mori in Francia». «E cosa devo dire? Mi doveva cascare addosso anche questa!» «Però hanno scelto un buon ricovero», riprese quello. «Chi diavolo ha a andarla su per forza? E troveranno compagnia, che già si è sentito che ci si sia rifugiata molta gente e che ne arrivi tuttora!» «Voglio sperare», disse don Abbondio, «che saremo ben accolti. Lo conosco, quel bravo signore. E quando ho avuto un'altra volta l'onore di trovarmi con lui, fu così compito». «E a me», disse Agnese, «m'ha fatto dire dal signor Monsignor Illustrissimo che quando avessi bisogno di qualcosa bastava che andassi da lui». «Gran bella conversazione», riprese don Abbondio. «E si mantiene, ne è vero? Si mantiene». Il sarto si mise a parlare alla distesa della santa vita dell'innominato e come, dall'essere il flagello dei contorni, era divenuto l'esempio e il benefattore. «E quella gente che teneva con sé tutta quella servitù?» riprese don Abbondio, il quale ne aveva più d'una volta sentito dir qualcosa, ma non era mai quieto abbastanza. «Sfrattati la più parte», rispose il sarto, «e quelli che sono rimasti hanno mutato sistema. Ma come? Insomma, è diventato quel castello una tebaide. Lei le sa queste cose». Entrò poi a parlar con Agnese della visita del cardinale. «Grand'uomo», diceva, «grand'uomo, peccato che sia passato di qui così in furia che non ho neanche potuto fargli un po' d'onore. Quanto sarei contento di potergli parlare un'altra volta, un po' più con comodo». Alzati poi da tavola,